Oracolo sul deserto del mare. Come i turbini che si scatenano nel Negev, viene egli dal deserto, da una terra orribile. Una penosa visione mi è stata mostrata. Il rapinatore rapisce e il distruttore distrugge. Ascendi, o Elam, poni l'assedio, o Media. Ho fatto cessare tutti i tuoi gemiti. Per questo i miei reni sono in preda alle convulsioni. Mi prendono i dolori come quelli della partoriente. Sono troppo sconvolto per udirlo, troppo turbato per vederlo. Il mio cuore si è smarrito, mi ha invaso l'orrore. Il vespro tanto sospirato diventa il mio terrore. Si prepara la tavola, si stende il tappeto, si mangia e si beve. Alzatevi, o capi, ungete gli scudi, perché così mi ha parlato il Signore. Va, poni una sentinella che annunci ciò che vedi. Vedrà una carovana, delle coppie di cavalieri, uomini montati su asini, uomini montati su cammelli, e osserverà con attenzione, con grande attenzione. Allora il veggente gridò: Signore, al posto di osservazione sto tutto il giorno, sul mio posto di guardia sto ritto tutte le notti. Ecco qui che giunge una carovana umana, coppie di cavalieri. Esclamano e dicono: è caduta Babilonia. Tutte le statue dei suoi dei sono frantumate a terra. Oh popolo mio, che ho trebbiato e calpestato nella mia aia, ciò che ho appreso dal Signore degli eserciti, dal Dio d'Israele, io te lo annunzio. Oracolo su Edom. Mi gridano da Seir: sentinella, che resta della notte? Sentinella, che resta della notte? Risponde la sentinella: viene il mattino e poi la notte. Se volete domandare, domandate. Convertitevi e venite. Oracolo sulla steppa. Nel bosco della steppa pernottate, carovane dei Dedaniti. Incontrate gli assetati, portate loro acqua, abitanti del paese di Tema. Presentatevi con pane ai fuggiaschi, poiché fuggono davanti alle spade, davanti alla spada sguainata, davanti all'arco teso, davanti al furore del combattimento. Perché così mi parlò il Signore. Ancora un anno, come gli anni del mercenario, e tutta la gloria di Kedar sarà sparita. Ciò che resterà del numero degli archi degli eroi di Kedar sarà poca cosa, perché il Signore, Dio d'Israele, ha parlato.